The music is free. Na radio Roma. Roma. Un'altra radio Roma. La radio che crea il movimento. Partiamo dal mondo per tornare a Roma vincitori. Ma che te? Dicono, non è la radio, è un'altra radio. L'altra radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. L'altra Radio Roma, dove la musica è la padrona. L'altra Radio Roma. Ragazzi, siamo partiti. Eccoci qua. Tutti e quattro i DJ di Nartra Radio Roma sono presenti per la prima diretta. 28 marzo, ore 9, anno 2010. Qui vicino a me, DJ Gasperino. Ciao a tutti, ragazzi. Da quest'altra parte, DJ Kempo. Bella, regà. E per finire, DJ Brontolo. Buonasera a tutti. Allora, come avete già sentito nei nostri podcast, il nostro blog è www.nartraradioroma.blogspot.com. Se volete ascoltarci, andate sul nostro blog e la prima scritta, quella rossa, che vi diciamo sempre di cliccare, questa volta la dovete da cliccare. Vi collegherete subito a 1000 mics, dove troverete una schermata con un bel triangolino verde. Spingete play e ci ascolterete musica, parole e inquietudini di Nartra Radio Roma. Allora, io sono DJ Cocot. Non mi sono presentato prima, siamo agli altri quattro scarmanati. E per iniziare incominciamo subito a visitare una nostra net label che si chiama A Quiet Bump. È nata in Irpinia nel 2005 e produce artisti la cui musica verte sulle sonorità trip hop, dub e digital roots. Naturalmente solo Creative Commons e tutto free download. Perciò partiamo subito col primo pezzo. Loro sono i Sardinia Base Legalize e questa è What Can I Do for Africa. Africa, Nartra Radio Roma. Roma. Hey, don't give up, Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Don't give up, say, Africa. Jugger fights a can I do to be able to laugh with ya? Do you know everything we do is in the name of Allah? Hey, do you know everything we do is in the name of Jah Jah? Why can't we get together as one? Between one and another, so yeah, yeah. Africa, get up and stand up and fight change. You're right forever. This is Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Why not unite so Africa? Hey, don't give up, Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Don't give up, say Africa. Jugend fights a tous les droits sans te faire mordre de toi. Donc ouvrez toutes les voies pour l'unité africaine. T'es bien dit Harken. Le plus important c'est de se réunir et trouver des solutions. Africa. What can I do for Africa? What can I do for Africa? Why not you like so Africa? Hey, don't give up Africa. Siamo entrati finalmente nell'etere, nelle vostre case, nelle vostre orecchie. Per la prima volta DJ Cocot e il primo pezzo Sardinia Bass Legalize con What Can I Do for Africa. Sempre della label A Quiet Bump. Naturalmente per trovare questa net label basta che scrivete questo nome su Google e ve lo troverà in un baleno. Adesso continuiamo sempre con A Quiet Bump. Il prossimo pezzo è dei Giambassa. Loro sono un progetto di musica dub digitale iniziato nell'anno 2000 da Carmine Minichiello e Raffaele Gargiulo, con base in Irpinia. Vi passeremo un altro pezzo, naturalmente Giambassa, con il pezzo Tutto come prima, solo su Nartra Radio Roma. Stato su una tanutata stonata, la sassà. Se vede che succede sembra così, avveria attorno a me. Quei ragamo è come il lamento delle iene. Tu non fai manca a tempo alla sasta. Quando hai urnata a pensare a casa, passa quella via, se fornisce un'altra parte. La luce attorno a me è sempre più forte. A volte strano ma è possibile incontrare. Negli occhi spenti protesi a fissare. Sotto il riflesso delle costellazioni. Il vuoto intorno e le altre tensioni. E russai che stiamo sempre fermi in tasto posto. Sta cangia moon, appena tutto spusta. Sotto l'effetto di gradi di morfina. E nel mio corpo mo tutto come prima. E se lo sanno quando mess, quando l'utile sempre sul stress. La vita torna che c'è nato bluff. Una da traccia che è andata messa. E se lo sanno quando mess, quando l'utile sempre sul stress. La vita torna che c'è nato bluff. Una da traccia che è andata messa. Thank you. fa gira. Via di qui, prima che sia ora la variana da parte, guarda che succede, lo è. Ma ancora non si grida, com'è possibile lasciarsi andare, respirare a scatti, far meticare. Sospesi in giù, sentire il fare, intravedere da lontano, nulla da eccepire. Qualunque cosa si potrebbe deviare, qualunque cosa è da andare a morire. Laggiù è sempre la deriva, sempre più lontano, comunque vada. La superficie quando brucia lentamente è così, ma non succede niente. L'ora che sta in chiusa, l'ora che non cessa, quando lo tempo è sempre sullo stress. E se lo sanno quando mess, quando lo tempo è sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff, una da traccia candanata messa. E se lo sanno quando mess, quando lo tempo è sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff, una da traccia candanata messa. Quando mess, quando l'utile sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff, una da traccia candanata messa. Se lo sa quando mess, quando l'utile sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff, una da traccia candanata messa. Ed eccoci di nuovo, DJ Gogot è pronto per darvi un altro po' di roba. Allora, continuiamo sempre con la net label Quiet Pump. Come vi ho detto prima, vi ho fatto ascoltare i Giambassa e Sardinia Best Legalize. E continuiamo con un altro bel gruppetto, loro si chiamano i Black Era. Black Era, come vi pare a voi. Sono del 2004, vengono da Napoli. E loro fanno sempre parte di questa etichetta Creative Commons che viene da Irpinia. Il pezzo è Black Era. You want Osama, give us Anderson. Sempre. C'era una giovane di 20 anni, si chiama Gus Davy. Gas Devi significa dea del gas. We'll be right back. fosforgene ti fa soffocare in mezzo alle tue secrezioni. Il cianuro ordina al cervello, basta, sei stanco, non respirare più. Riesce a contattare i tecnici americani della Union Carbide, spiegano la situazione, ma i colleghi americani non possono dare informazioni sulla composizione della nube tossica, non hanno autorizzazione. Provate a respirare meno possibile. E loro erano Black Era, oscuri e tenebrosi, da Napoli. Vi voglio presentare un altro gruppo, sempre di Quiet Bump. L'ultimo per quanto riguarda DJ Cocot a riguardo di questa net label, lui è Daniele Antezza, aka Dadab, nasce nell'81 a Matera, terra di Murgia, sud Italia. Suona amatorialmente batterie e percussioni fino al 2004, da quando rimane stregato dalle infinite potenzialità della computer music. E per voi un pezzo di Dadab intitolato esattamente Waiting in a Battle. Per voi Dadab su un'altra Radio Roma. I don't know. caffè è un piacere, se non è buono. E che cazzo? Chitarre, chitarre e ancora chitarre. DJ Cocot continua ancora con i Somber Light. Il pezzo appena passato si chiamava Sara Red. Loro vengono da Legnago e hanno appena prodotto un mini LP di 4 tracce e a maggio sarà pronto il nuovo album. Per seguirli potete andare su loro MySpace, coop.tv. Insomma, loro sono Somber Light e il prossimo pezzo è Free Time su Nartra Radio Roma, Roma. Thank you. grey November, but seems to be a sunny July. I wanna see the sky, I wanna see the sun, and I need for a free time. I wanna run away from you. I want to breathe the fresh air. Eccoci arrivati alle ore 10:57. Io DJ Gogot continuo con un'altra net label, si chiama Noise Beat e nasce a Caserta alla fine del 2008, mirando a far conoscere e promuovere artisti che sono sotto licenze Creative Commons, dove si può scaricare la loro musica liberamente nei siti ufficiali del loro net label. Noise Beat è aperta ad ogni stile: techno, ambient, dubstep, EDM, electro. Se volete ascoltare inoltre le selezioni di Noise Beat in diretta, vi basta collegarvi ogni lunedì alle 6 su airbase.it, dove Beast e Gaudio vi mixeranno le ultime novità di Noise Beat. Oggi vi presento il nuovo album di Craig, lui è di Rovigo, l'album si chiama Red, e vi farò ascoltare due tracce, la prima Star T e la seconda Running Station. Prima di mandare queste due tracce voglio salutare i nostri spettatori, soprattutto Prisma di Radio Pazza, e un saluto speciale a Daniele e il Capoccione. E adesso per voi, Craig. dicono la radio. Tu sai che? Tu sai che? Tu sai che? Dicono non è la radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Come? In bassa frequenza. Questa volta vi voglio parlare di un'altra net label. Si chiama Appetap Records ed è mezza romana e mezza tedesco. Vi manderò un pezzo di Disco Ghost dal suo album Bad Mister Shake It Up solo su un'altra radio Roma. Funky Electro, The Disco God su un'altra radio Roma. Ed eccoci trovarci di nuovo sulle frequenze di Nartra Radio Roma. Sempre Happy Tap Record, il prossimo è Drone con Cops at My Door su Nartra Radio Roma. The good I would do, I do not. And the evil I would not, I do. I roll like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. I rhyme hot like coffee, dipping tracks like stones. Lacing tracks like Teflon, rhymes busting through your bones. In waves I roll like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. E che mo, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio. Roma, Roma, Roma. È una radio Roma. Che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. DJ Gogot, vi lascio con un ultimo pezzo, non jazz, ma molto drum and bass. Lui è Felon, il pezzo Sunbass. Yeah. E siccome non è finita, spetta a me l'onore di una buonanotte a tutti. Grazie a tutti ragazzi, grazie per la nostra prima diretta. Grazie a Jamendo, a Free Music Archive e a MacIdol, nartraradioroma.blogspot.com. Rimanete con noi. Lonely, we once were strangers, so unsure. Chances we made are drifting far Oh, penso che sia andata tutto a posto sta diretta, raga. Mazza, una via per la diretta, oh, bello, bello, bello. Bello, ritorneremo ogni giorno. 24 ore, 24 giorni, 24 anni, un'altra rad, Roma. Molla il microfono, Gocotto, molla il microfono. E ciao a tutti, buonanotte. Thank you. pensate che son matto. Eh sì, denartra di Roma.